será, bel tempo si spera. Dice la gente che fa bene al cuore, porta fortuna a chi non ha l'amore. Perciò fa bene al cuore rosso di sera, quando il bel cielo chiaro quasi tramonta. La bocca amara di baci finti, se la mia vita è un gioco ci puoi giocare, valgo per te ben poco, mi puoi lasciare. Porta fortuna, guardo la luna che nell'ombra sta, rosso di sera, bel tempo si spera. Dice la gente che bene al cuore, porta fortuna a chi non ha l'amore, perciò fa bene al cuore rosso.